Ok, buonasera a tutti e benvenuti al 58esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia dell'11 dicembre 2011. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist e coordinatore del Chapter Napoli. Quest'oggi mi intratterrò con novità nazionali e internazionali. E ricordo ancora che chi vuole partecipare alla stesura della scaletta dei podcast basta inviare un'email a staff@zeitgeistitalia.org. Grazie. Allora, passiamo alle prime notizie. Ok, chi è Peter Joseph? Peter Joseph, come sapete tutti quanti, è il fondatore del movimento Zeitgeist Internazionale e Charles Robinson ha prodotto un documentario, anzi un mini documentario di 49 minuti, rilasciato sotto licenza Creative Commons, sulla vita e il background del regista dei film di Zeitgeist. E i link e download sono disponibili sul sito whoispeterjoseph.com. La versione che ho appena postato è una versione doppiata dal nostro team di doppiaggio, appunto, e ringrazio quindi Ezio Coriglione per la direzione del doppiaggio e il riadattamento dei testi. E ringraziamo anche Sergio Sghedoni che ha donato la sua voce per interpretare il personaggio di Peter Joseph. Passiamo alla prossima notizia: coordinamento GDL e gruppi cittadini. Il nostro Fausto Govoni ha deciso di tenere ogni 2 settimane un podcast dove coordinatori cittadini e le GDL potranno fare delle reportistiche e mantenersi interconnessi e superare difficoltà tecniche o comunicative laddove ce ne sia bisogno. All'interno del post linkato ci saranno tutte le informazioni dettagliate. Ovviamente chi è il coordinatore invia una mail a Fausto che sarà presente all'interno del post. Questa è una cosa molto importante perché i pilastri del movimento Zeitgeist sono i gruppi cittadini, quindi devono operare sinergicamente per trasmettere le nostre idee nella maniera più efficiente possibile. Ah, certo, qua mi dicono che è nata, diciamo, è nata, diciamo, una discussione sotto il post che vi ho appena linkato e delle persone si sono lamentate perché dicevano che appunto, questo poteva essere un tipo di riunione chiusa, poiché Fausto si riunirà insieme a noi coordinatori, ai coordinatori dei GDL in maniera privata, ovviamente rilascerà password solo per i coordinatori cittadini, e molte persone sono rimaste risentite. Beh, voglio precisare che comunque non c'è nessuna chiusura perché è nessun Club Bilderberg o piramide nascosta, occulta o altre ragionate del genere perché noi registriamo tutto, metteremo tutto a disposizione degli utenti, come abbiamo sempre fatto per ogni podcast. Questo podcast privato è nato solo per evitare inconvenienti, per evitare off topic, per evitare dei trolling che possono nascere durante la registrazione dei podcast. Ad esempio, prendiamo quello che abbiamo fatto con Zerogas, in cui abbiamo dovuto mutare circa 5 persone perché non sapevano settare il push to talk e quindi hanno disturbato tramite la loro eco e diciamo l'impostazione sbagliata del loro microfono. E quindi questo podcast privato nasce proprio per far mantenere la tranquillità e una linea, un filo logico ai coordinatori GDL che hanno bisogno di comunicare nella maniera più efficiente possibile senza essere disturbati. Quindi è la cosa più importante è chi vuole partecipare a queste riunioni, basta semplicemente attivarsi. Dire a Fausto che si è diventati un coordinatore di gruppi cittadini o dei GDL e lui automaticamente mi metterà in condivisione le password per partecipare. Quindi nessun club Bilderberg qui, tutti quanti possono partecipare. L'importante è appunto attivarsi perché abbiamo bisogno di non solo di spettatori fissi, ma anche di attivisti che si muovano sul territorio. Penso di aver risposto a questa critica mossa. Comunque, successivamente l'ho inserita anche sotto il post. Passiamo alla prossima notizia. Allora, incontro con Zerogas. Venerdì 9 dicembre abbiamo discusso su TeamSpeak insieme ai coordinatori del movimento Zerogas. C'è stato anche Simone, il coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale. E appunto ci siamo presentati, abbiamo descritto a vicenda i nostri propositi, il nostro rapporto con l'open source e abbiamo discusso sulle tecnologie promosse appunto da Zerogas, in particolar modo della tecnologia Air, la loro automobile che è alimentata ad aria compressa, e la tecnologia della casa passiva Zerogas. Metterò successivamente i loro link in modo tale che tutte le persone potranno andare a osservare personalmente le loro innovazioni tecnologiche. Questa non è stata solo una prima riunione, infatti seguiranno altre discussioni tecniche per vagliare l'effettiva validità delle innovazioni proposte. Quindi ci saranno con il nostro GDL Tecnologia, Daniele, German e altri tecnici nostri, faremo delle belle discussioni appunto. Quindi io non ho altre novità nazionali e vi ricordo sempre di scrivere a staff@zeitgeistitalia.org per aggiungere sempre delle nuove proposte. Benissimo, allora lanciamo la reportistica dei gruppi di lavoro. Volevo annunciare con immenso piacere che la nostra Giovanna Marino ha fondato un GDL, un gruppo di lavoro chiamato Consumo Critico. Ma adesso mi zittisco e faccio parlare lei in modo tale da poter fare introdurre questo bellissimo GDL. Vai Giovanna! Ok, grazie Vincenzo. Allora, io ho pensato che tutta la nostra vita dovrebbe essere propensa a trovare delle soluzioni ottimali, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. E quindi ho pensato di aprire questo gruppo proprio per poter fare delle scelte più consapevoli nella nostra vita. Questo gruppo intende creare una documentazione che permetta di valutare i prodotti che noi acquistiamo tutti i giorni, dal cibo alla cura del corpo, alla pulizia della casa, perché questi prodotti sappiamo benissimo sono pieni di agenti chimici, tossici, cancerogeni, eccetera, eccetera. Quindi una scelta consapevole nel momento in cui andiamo a fare la spesa, deve essere supportata dalla conoscenza di questi prodotti tossici che sono, contenuti dentro i prodotti che compriamo e tante volte non lo sappiamo nemmeno. E quindi questo gruppo si propone di far crescere, la consapevolezza nelle persone, fornendo dati scientifici, le cui fonti saranno verificabili, per quanto riguarda appunto le componenti, dei vari prodotti. Questo proprio per, migliorare la nostra vita, e quindi anche poi l'ambiente, perché, meno inquiniamo con la scelta dei prodotti giusti, il nostro corpo, la casa, eccetera, meno inquiniamo anche l'ambiente. Quindi, siccome siamo tutti esseri viventi su un'unica terra e siamo legati all'ambiente, anche un piccolo gesto di comprare un prodotto in modo consapevole, quindi sapendo di comprare un prodotto pulito, senza cancerogeni dentro, senza porcheria, senza agenti tossici, aiuta sicuramente tutti. E quindi questo è il proposito. Mi auguro che la cosa vada bene. Ci sono già parecchie persone che si sono rese disponibili. Per cui insomma possiamo già cominciare il lavoro. Sicuramente qualsiasi altra persona voglia entrare a far parte di questo gruppo sarà il benvenuto perché c'è molto da fare, quindi l'invito è rivolto a tutti. Ok, grazie Giovanna e in bocca al lupo per questo nuovo GDL che sarà anch'esso importantissimo. Ovviamente tutti i contatti di questo GDL saranno disponibili come tutti gli altri, attraverso contatti Facebook, Google Document aperti a tutti e anche sulla nostra piattaforma zeitgeistitalia.org. Volevo dare anche la parola ai GDL Tecnologia, vorrei sapere da Daniele Poddighe, il nostro grandissimo coordinatore, i nuovi sviluppi e insomma, Daniele, facci sapere. Grazie. Allora, sì, come sapete ho ultimato la lampadina LED, adesso sto lavorando al video per poi lasciarlo in open, cioè in modo che tutti possano realizzarsi la propria e magari anche a portare dei miglioramenti che sono necessari. E Poi per il resto do la parola magari a Claudio per il suo impianto per l'idroponica. Do un aggiornamento sulla mia pianta nell'armadio. Ha definitivamente mollato le vecchie foglie, le foglie gialle sono proprio cadute. Sta partendo in punta. Diciamo che le foglie nuove sono belle grandi e belle. Claudio le ha viste, quindi magari può dirvi qualcosa di più, visto che ha studiato. Sì, ciao a tutti ragazzi, vi parlo velocemente del piccolo progetto di coltivazione idroponica che sto portando avanti insieme ai ragazzi del GDL Tecnologia. Lo stadio è ancora molto iniziale perché ho fatto germinare delle piantine, penso domani di metterle dentro il sistema, lo collauderò, farò un video. E ho già tutto quello che mi serve più o meno, quindi poi metterò sul blog di tecnologia tutti i dati, i risultati, tutto consultabile. E prossimamente penso di utilizzare la lampada che Daniele ha costruito e che ha restato proprio nel suo armadio, tenendo quindi al buio la pianta e testando questo tipo di tecnologia con i LED rossi e blu che servono a migliorare il rendimento fotosintetico della pianta. A quanto pare la pianta ha risposto benissimo e proseguiremo con questo progetto unendo le due cose e possibilmente poi in futuro abbiamo intenzione di alimentare tutto quello che ci serve. Con fonti di energia rinnovabile, quindi magari con un motore Stirling, con un pannello solare, diciamo che tutte le tecnologie poi verranno assimilate in un unico progetto. Tutto questo, documentato e reso disponibile, come tutto il resto sul nostro sito, in Creative Commons, sul blog di tecnologia. Ok, grazie Claudio. Se magari puoi postare per i nuovi arrivati il vostro blog, che così potranno deliziarsi con le ultime scoperte. E Sì. volevo. Ok, grazie. Volevo sapere se c'era qualche altro GDL qui presente, qualche altro coordinatore che poteva fare una reportistica. Se volete dico due parole su sociologia. Certo, devi. Allora, il gruppo di lavoro di sociologia, dopo il simposio, ha deciso di portare avanti un nuovo progetto di ricerca che appunto riguarda la partecipazione femminile all'interno del movimento. Questo perché ovviamente sia insieme al simposio, ma in generale ci siamo accorti che la partecipazione femminile è molto inferiore rispetto a quella maschile. Quindi ci stiamo interrogando sul perché. E stiamo preparando una ricerca diversa da questa che abbiamo proposto la prima volta, perché sarà una ricerca di carattere qualitativo. Quindi abbiamo iniziato un po' a pensare alle domande che potrebbero un po', diciamo, stimolare il pubblico femminile. L'altro progetto che invece di cui inizieremo a parlare il prossimo ISIC, che sarà giovedì, sarà proprio un discorso di comunicazione all'interno del movimento. Perché secondo noi è diventato veramente importante iniziare a tracciare delle linee guida. Questo per evitare comunque una sovrapposizione oppure informazioni non corrette, ma prima che all'esterno, all'interno del movimento stesso. Quindi dobbiamo sviluppare una strategia di comunicazione efficace. Comunque il prossimo Team Speak poi sarà questo giovedì alle 21:30. Ok, grazie Alessandra. Ok, bene. Non c'è nessun altro, Io quindi. Ah, ok, vai. sì, scusa, io avevo preparato anche un marchio per il nuovo gruppo, ve lo posso far vedere, vi metto giù il link e vorrei avere un vostro parere. Va bene, casomai lo vediamo dopo, una volta finite anche le reportistiche dei gruppi cittadini. Di Ok, grazie. nulla. Passiamo ai gruppi cittadini. Ok, vai Davide Gaullo, da Milano. Ah, ok, mi scritto che mi dai qualche Scusate minuto. un sto collegando il microfono, se prima c'è qualcun altro. Sì, ci sarei io, però volevo dare prima la parola agli altri per poi passare al Chapter Napoli. Ragazzi, scrivetelo in chat. Ok, allora passo prima a Chapter Napoli. Ok, ragazzi, la settimana scorsa ho avuto la fortuna di partecipare a una riunione in cui era presente il professor Maurizio Pallante, che, come tutti voi sapete, è il fondatore del movimento di Crescita Felice. Un movimento che è molto affine con con il nostro perché sta diffondendo consapevolezza attraverso i consumi, un consumo intelligente, per far decrescere l'economia, ma al contempo rendere più qualitativa la nostra vita e garantire un alto standard di vita appunto nostra. Parte dalla concezione che dal concetto principale che il PIL non rappresenta il benessere degli esseri umani e quindi facendo calare il PIL tende a far alzare la qualità della vita degli esseri umani. Ovviamente c'è a disposizione il loro sito internet per chi avesse delle domande o delle curiosità avesse delle curiosità, quindi potete consultarlo. Si chiama Movimento Decrescita Felice. Bene, io sono andato lì, ho cercato di avere un contatto con il professor Pallante per poter instaurare un legame con il nostro movimento. Mi hanno concesso l'opportunità di parlare e ho tenuto un discorso. La sala più o meno era l'aula magna della facoltà di ingegneria di Napoli e era strapiena, c'erano più di 150 persone all'interno. Ho fatto il mio intervento, ho portato un po' le nostre idee, chi siamo, cosa abbiamo fatto col simposio Società Sostenibile, gli esempi open source. E io ho elencato la possibilità di poter modificare le nostre abitudini, oppure un nuovo modello che è quello basato appunto sull'open source per la gestione intelligente della società. E è stato molto apprezzato il mio intervento e ho preso dei contatti con il professor Pallante, in modo tale da poter stringere un'altra alleanza, per spingere la cultura e quindi la consapevolezza per un futuro migliore della nostra società. Invito a tutti quanti ovviamente di partecipare a tutte le riunioni, manifestazioni di questi movimenti per poter stringere dei legami, quindi per poter essere sempre più numerosi ed essere sempre più visibili. Quindi. Vi ringrazio, questo è tutto dal chat per Napoli. Passiamo al prossimo. Davide, sei riuscito a configurare il microfono? No, purtroppo il mio intervento è stata una cosa molto inaspettata. Io volevo semplicemente prendere dei contatti con il professor Pallante, quindi. Nessuno mi ha registrato tra i giornalisti, perché era solo un intervento, quindi purtroppo è mancata questa occasione. La prossima volta porterò una fotocamera, una videocamera. Vai Davide, vedi un attimo se riesci a parlare. Allora, diciamo, il gruppo Cittadini di Milano si sta preparando a un gennaio di fuoco. Avremo due incontri cittadini, uno per nuovi arrivati e uno per gli attivisti. Avremo poi un intervento, una mostra artistica, soldi d'artista, che si chiama lo Spazio Tadini, dobbiamo confermare la data. Comunque abbiamo quindi proposto di farlo a fine mese, adesso non ho tutte le date comunque per il giorno. Abbiamo anche in programma di fare una proiezione del Moving Forward, una sorta di anniversario della proiezione dell'anno scorso. E ho appena ricevuto notizie da un nostro attivista che è stato contattato da una scuola in autogestione dove vogliono fare la proiezione di Zeitgeist, non ho capito quale film, nell'Aula Magna. Quindi da questa settimana prossima sarà attivo. Noi ci stiamo attivando, il gruppo sta dividendosi le attività per prepararci appunto al nuovo anno con mille presentazioni, mille attività. Stiamo rivedendo un po' una presentazione del movimento Gruppo Cittadino, quindi siamo belli attivi e con tanti attivisti carichi e vogliosi di fare tante cose. Ok, grazie Davide. Da Firenze ce n'è tanti, però non c'è il coordinatore. Se volete, vi dico io quello che abbiamo fatto finora e quello che abbiamo intenzione di fare dopo. Certo, vai, vai, Flavio. No, niente. Allora, noi abbiamo stabilito di incontrarci dal vivo una volta al mese, e su TeamSpeak dopo 15 giorni, quindi due volte al mese in totale, ma una volta dal vivo, l'altra su TeamSpeak. E ci siamo riuniti l'ultima volta lunedì. Attualmente stiamo un po' andando anche con il movimento Occupy Firenze, c'eravamo anche ieri, e abbiamo contattato via Skype, un economista, però io non mi ricordo il nome, comunque c'erano anche Cristina e Antonio e gli altri ragazzi, se lo dicono loro il nome dell'economista non me lo ricordo. E nulla, abbiamo fatto questo collegamento Skype dove lui ha parlato un po' di quello che intende fare, quindi di un reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. De Simone. Ecco, De Simone, che abbiamo fatto un collegamento appunto Skype con De Simone e ha parlato a tutti, c'erano appunto anche i ragazzi di Firenze di Occupy. Un'altra cosa che dobbiamo fare è comunque poi fare, non regolarmente, ma più spesso degli incontri a livello toscano, e abbiamo già un luogo dove incontrarci, e il nostro, diciamo, obiettivo in quel caso lì, cioè quando ci incontreremo a livello di Toscana, sarà di studiare l'economia di stato stazionario, e per questo ci vorremmo appunto riunire per dare un po', fare un po' il punto, capire bene di cosa si tratta, per poi vedere se è appunto una cosa valida da riproporre o meno. Ecco, tutto qua, per ora questo. Molto bene, grazie ragazzi. E volevo fare solo una piccola parentesi. Luca Mercalli, un famoso meteorologo, ha fatto un podcast, anzi scusate, un passaparola sul blog di Beppe Grillo, in cui praticamente elenca la decrescita felice e ha elencato per la prima volta la steady state economy, con Herman Daly e altre bellissime cose, altre bellissime tematiche. Questo mi ha sorpreso e sono rimasto molto contento, perché finalmente anche su un media molto forte come quello di Beppe Grillo si comincia a parlare di certe tematiche. Oh, c'è anche Fausto, c'è anche il nostro Fausto Goni. Beh, la reportistica, avevo già mezzo accennato qualcosa venerdì sera. Niente, sono andato a un incontro di Arcipelago Scheck, che c'era la, diciamo, responsabile dell'Emilia Romagna, che fortunatamente abita a Ferrara. Ho anche i suoi contatti ora e gli ho detto che mi piacerebbe fare una serata con lei, nel senso di fare una presentazione appunto dello Scheck e eventualmente anche insieme al nostro amico Caldari, e per appunto far vedere che cos'è la moneta e quale potrebbero essere le alternative. Mi sembra che ci può stare in un'unica serata. E niente, è stata una serata molto, molto intima, in un piccolo ufficio, eravamo circa 16 persone, c'erano simpatizzanti, diciamo, dei grillini ferraresi, c'era due ragazzi di Transition, e altre persone, diciamo, allacciate una volta alla politica, che però si stanno un po' slacciando, stanno capendo che non è più quella la strada da seguire, fortunatamente. E niente, cosa posso dire? Vabbè, avrei qualcosa sull'argomento Scheck, ma non mi sembra il caso di parlarne, perché non fa parte di una reportistica, cioè fa più parte proprio di un argomento da ci vorrebbe un po' più tempo, ecco, non 5 minuti. E nient'altro, per ora questo, e stiamo cercando di organizzare questa serata con l'anno nuovo, e spero insomma di fare una cosa come si deve di migliorare la pubblicità a confronto all'ultimo evento, che è stata la proiezione di Moving Forward, che mi aspettavo qualcosina di più, però tutto sommato è uscito bene, ci siamo presentati bene, sono stati soddisfatti tutti, e quindi vogliamo ripeterci, migliorando in continuazione, ecco. Ok ragazzi, siete a dir poco meravigliosi, mi raccomando, allacciate sempre più legami con questi movimenti, perché ci servono e dobbiamo creare una moltitudine sostenibile. Si era prenotata Patrizia Sesto, che voleva dare un surplus. Vai. Sì, ciao, io e Alexandra, mia figlia, oggi abbiamo partecipato all'assemblea mi sentite? Certo, vai. Ah, ok. All'assemblea dell'Indignatos oggi pomeriggio a Firenze, no? E c'era appunto come ordine del giorno un po' il fare punto della situazione per quello che è il modo in cui appunto loro stanno portando avanti il discorso. E all'ordine del giorno c'era autocoscienza, obiettivi a lungo termine, poi vabbè, avevano delle cose più a livello proprio interno di cui parlare, quindi su questo sorvoliamo, e il collegamento da Londra con gli Occupy di Londra, no? Se vi interessa anche di questo, io vi aggiorno un attimino, se è fuori, diciamo, fuori programma, è come non detto. No, facci sapere cosa avete fatto. Ecco, praticamente, diciamo che il punto della situazione, ve lo riassumo molto velocemente, è che, diciamo, si è un po', come dire, approfondito come è andato il discorso di Occupy di Piazza Santissima Annunziata, no? Se non sbaglio si chiamava così la piazza, ora vorrei, perché io con le piazze faccio sempre confusione. E praticamente hanno fatto una riflessione sul fatto, per esempio c'era questa famiglia Rom che appunto si era unita, no? a loro, e la conclusione a cui sono arrivati praticamente è che probabilmente come strategia non è stata molto positiva, perché diciamo che a un certo punto hanno perso di vista il fine, no? Che era quello appunto di andare in una direzione di appunto andare oltre questo sistema, e si sono ritrovati un po' invischiati in una situazione in cui poi era diventato occuparsi dello sfratto di Tizio, oppure solidarietà con i Rom, eccetera. Inoltre è emerso che hanno fatto appunto questo lavoro di autocoscienza sul fatto che comunque non è stata un'esperienza molto positiva, in quanto loro hanno cercato di creare, diciamo, una base empatica con questa famiglia. Però poi alla fine del dunque una ragazza di cui non mi ricordo bene il nome, ma non so se te Flavio te lo ricordi, che c'era ieri anche, no? Mi sembra che si chiami Alzira o qualcosa del genere, quella ragazza con i capelli lunghi che ha parlato anche con De Simone. Sì, la ricordi? Sì, ricordi? Okay. E lei diceva appunto che poi quando alla fine ha parlato, no, con questo signore, credo il capofamiglia del gruppo Rom, che gli ha detto, ma adesso in sintesi, no, cos'è che possiamo fare insieme per cercare, no, di trovare una soluzione insieme per dove vogliamo andare, e lui ha detto no, io sto bene così. Quindi è emerso in sostanza che questo gruppo non stava cercando di creare unità, ma semplicemente di trovare un sussidio. E abbiamo convenuto sul fatto che non è stata un'esperienza positiva, in quanto il 99% delle persone, cioè in noi il 99%, non siamo tutti uguali, ci sono persone che hanno ancora gli occhi foderati di prosciutto, cioè siamo il 99%, ma molti di noi ancora dormono, no? Di conseguenza queste persone ancora dormienti, che hanno molto probabilmente anche delle grosse resistenze, delle grosse paure, se vedono un movimento che si affianca ai Rom e abbracciano a caso dei Rom, molto probabilmente tende a estraniarsi da questa cosa. Perciò che forse è più produttivo separare un discorso di umanistico assistenzialista, se io mi voglio in pratica far carico di aiutare i Rom, benissimo, li aiuto, ma questo non si deve mescolare con un obiettivo più grande, che è quello di passare dal sistema in cui ci troviamo a un sistema completamente nuovo che faccia inevitabilmente diventare questo obsoleto, altrimenti poi si rischia di perdere le altre persone, no? E abbiamo bisogno invece di far sì che le altre persone invece ci vedano, anzi abbiamo bisogno che tutte le persone, cioè in qualche modo di rimanere nel cuore delle persone, che voglio dire, io infatti nei miei interventi che ho fatto oggi pomeriggio, quello che ho cercato, su cui ho cercato di portare attenzione, è che per esempio a Wall Street i ragazzi che hanno occupato, che sono stati anche maltrattati dalla polizia, no? E che non hanno reagito, sono entrati nel cuore delle persone. Questo ha fatto sì che le persone via via che assistevano a queste ingiustizie scendessero sempre di più in piazza, perché empatizzavano sempre di più con i manifestanti, con gli occupanti. È chiaro che questo, se le persone vedono un gruppo di persone che sono lì a fare amicizia con i Rom, si allontanano da questo, no? E niente, sì, quindi questa è una delle cose. Ora su questo chiudo, perché credo si sia capito il punto. Quindi anche loro sono arrivati comunque alla conclusione che questa non è stata una mossa produttiva. Poi per quanto riguarda un discorso invece sulla lunga distanza, appunto a lungo termine, hanno accennato al fatto che appunto ora partirà questa marcia, perché sembra che appunto gli Occupy di tutta Europa si vogliano coalizzare, cioè riunirsi, c'è questa marcia che non ho capito bene, credo che parta da un posto che sta a 120 km da qui, quindi è una marcia che durerà in circa una settimana, perché non ho capito bene come ancora non erano partiti, ma penso che stiano preparandosi a partire fra oggi e domani. E quindi poi l'obiettivo che questi occupa è si riuniscono tutti quelli d'Europa a Roma e facciano questa occupazione a Roma. Ancora non si sa bene se sarà una cosa toccata e fuggi o se sarà una cosa in cui pensano insomma di stare lì per un po'. Questa è un'altra cosa che è emersa oggi. E poi appunto una cosa molto importante è che anche loro hanno capito che è importante insomma dialogare con tutti i movimenti, no? Cercando di rafforzare i punti che possiamo avere in comune, le cose su cui possiamo lavorare insieme, perché da soli non si va da nessuna parte. E in ultima analisi sul fatto che loro si riponevano il problema un attimino di occupare o non rioccupare a livello anche di mettere su proprio in pianta stabile tipo l'occupazione con le tende eccetera, e su questo concludo, e qualcuno invece ha detto che forse sarebbe stato più produttivo fare delle assemblee magari nelle varie piazze dove anche le persone che passavano, ascoltavano, potevano insomma in qualche modo unirsi e chiaramente fatto in piazze visibili come possono essere Piazza Signoria, non come oggi che eravamo in Piazza Tasso dentro al recintino che si sembrava in gabbia dove giocano a pallina ed eravamo soltanto noi in sintesi, no? E praticamente ancora lì appunto non hanno raggiunto un accordo, a parte che anche il verbale di quanto si è parlato oggi, perché poi alle 5:30 sono venuta via perché ovviamente tutto quello che implicava poi sfratti e altre cose, sono venuta via perché avevo anche altre cose da fare. E l'ultima cosa che io ho fatto presente è che è più auspicabile, no, cercare non di infrangere la legge in questo momento, perché è emerso il fatto che comunque riunirsi in assemblea in una piazza è diventato illegale, sembra, no? Però siccome esiste ancora una Costituzione, per quanto screditata, bistrattata, tutto quello che si vuole, però esiste ancora, bisognerebbe, gli ho detto questo, che bisognerebbe trovare magari anche un avvocato di diritto che sia in grado di dire se il regolamento nuovo di polizia urbana che è stato fatto abbia presenti delle incostituzionalità, perché in tal caso uno se si siede in assemblea e è certo che loro in questo modo quando vengono a arrivarti di lì, no, a farti una multa, cioè stanno agendo in modo anticostituzionale, allora tu puoi comunque agire in un modo che ti consente comunque di farlo nella legalità per quello che è in questo momento il risultato, no? Ok, allora passerei un attimo la parola a Massimiliano Masciulli da Treviso. Vai Max. Ciao ragazzi, niente, io volevo solo ricordare che giovedì 15 abbiamo una proiezione con un talk al Liceo Canova di Treviso, e trovate l'evento anche nel sito e niente, ci sarà un talk, ci sarà Federico e tutto questo. Ringraziamo anche per l'organizzazione, perché siamo stati ospitati dal gruppo Fare Treviso, che sono diciamo una costola del movimento di Grillo 5 Stelle e niente, ci sarà questa cosa qui e chi è della zona magari può venire. Ok, perfetto. Okay. Vincenzo, scusa. Okay. Dimmi Paolo. Dato che non mi sono dimenticato una cosa, tra le cose che stiamo facendo, tra l'altro l'hanno fatta tutta da sola dei ragazzi proprio nuovi che sono venuti nel gruppo di Firenze, hanno contattato Caldari, che va da loro dal vivo nella loro scuola, una scuola superiore, addirittura due incontri per parlare un po' dei temi che tratta lui, insomma di economia, a due livelli, uno con i ragazzi della prima, trattando un po' di temi un pochino più semplici, più alla non si può dire alla portata di tutti, e un secondo incontro con i ragazzi della quinta. E, tra l'altro questi ragazzi sono nuovi, hanno fatto veramente tutto da sé, l'hanno contattato, è molto molto bello. Poi abbiamo un progetto a Firenze grossotto, però stasera dovrebbe venire Delio eventualmente a parlarne, che se viene aspetto che lo faccia lui, casomai poi ci sarà comunque un'occasione di proporlo a tutti. Ok ragazzi, dal sud nessuno? Solo io? Ok, qui non c'è nessun altro del sud, quindi... Ok, passiamo all'angolo della scienza. Ma prima di cominciare volevo un attimo dire una cosa a tutti voi qui presenti. Se avete qualche libro interessante da leggere, magari se avete da portare un capitolo di un libro e magari leggerlo mano a mano, come si faceva prima con la voce dei libri che teneva Claudio, ci farebbe molto piacere perché era molto interessante. Magari si può prendere spunto da qualche libro di qualche autore famoso, tipo Lester Brown o altre personalità del genere influenti a livello scientifico o a livello sociologico. Quindi se qualcuno vuole leggere qualche capitolo di qualche libro per accrescere la nostra cultura, è benvenuto. Ovviamente me lo comunica tramite email e io lo metto in scaletta. Ok, allora passiamo all'angolo della scienza. Bisogna fare la siletta? No, ce l'eravamo proposto, ma in realtà non si è fatto avanti nessuno, quindi niente sigletta. La faccio io, dai. Ta-ta-ta-ta. L'angolo della scienza. Grazie, bene, bene. Allora, questi due articoli, ho preparato due articoli, anzi, Daniel Jervensen, se non sbaglio si chiama, speriamo che non ho sbagliato il cognome, la pronuncia, e mi ha inviato due articoli tratto dal suo blog, che si chiama lospiritodeltempo.wordpress.com. Il primo si intitola commercializzata una stampante 3D piccola a basso costo e accessibile a tutti. Vi leggo l'articolo. Stiamo parlando molto spesso di stampanti 3D anche nel nostro GDL tecnologia. Stiamo sviluppando una rep app. Ok, allora, sin da quando ero un bambino, ho sempre desiderato avere una macchina capace di produrre tutto quello che volevo al mio comando. Una volta, ogni tanto la tecnologia si allinea con i desideri dell'infanzia e come conseguenza abbiamo la creazione di prodotti magici, tra virgolette. Il printbot è uno di questi concetti. Mentre le stampanti 3D non sono più una novità, il printbot aspira a diventare il più piccolo e il più semplice sul mercato. Le stampanti 3D sono dispositivi create per lavorare assieme a un software di modellazione sul tuo computer. Si introduce un disegno sul proprio computer e la stampante lavora per creare l'oggetto desiderato. Per fare questo, la stampante deposita uno strato dopo l'altro di materiale, generalmente plastica, ma in realtà sono stati utilizzati dai più disparati, anche materiali organici o biologici, finché non replica interamente l'oggetto. Le possibilità non hanno fine se si pensa a quanto lontano ci può portare una stampante 3D, sia se si parla di costruire piccole parti per riparare o da assemblare, oppure stampare prototipi di invenzioni e idee. La stampante 3D è in grado di farlo. Immaginate un mondo dove si può creare il pezzo di ricambio per la vostra lavatrice piuttosto che ordinarlo online. Queste sono le cose per cui sono intese le stampanti 3D, e questo perché i costruttori di printbot mirano a farlo più semplicemente possibile. Come detto prima, questa tecnologia non è nuova. I printbot si differenziano dalle altre stampanti 3D grazie alla loro abilità di portare questo prodotto alle masse. Fino adesso, a meno che non si fosse dei veri professionisti in robotica, la stampante 3D era un po' fuori dal livello di dimestichezza del cittadino medio. Printbot mira a mettere una stampante 3D in ogni casa, rendendo l'hardware più piccolo e accessibile possibile, e semplificando la costruzione dei processi di modellazione. Il printbot ha un design originale, che si è ispirato ad altri design, facendo pieno uso di informazioni open source. Usiamo elettronica e firmware di ultima generazione, cuscinetti lineari, trapani con asta liscia e con tolleranze ristrette, un letto di stampa per il taglio laser e un estrusore dal design popolare. Aspetta, penso che sia stato tradotto male perché c'è scritto fine corsa meccanici. Un letto riscaldato fatto in PCB, un hotend con punte intercambiabili e funziona con la versione software open source più recente, spiega il designer Brooke Droom. Più recentemente Droom ha lanciato la sua idea su Kickstarter, questo per raccogliere fondi e rendere realtà il suo sogno di mettere una stampante 3D in ogni casa e in ogni scuola. La raccolta di fondi per il progetto è stato un successo e fino ad ora si sono raccolti $185,000 e ora Brooke è nella fase iniziale dell'approvvigionamento con i fornitori in modo che possa produrre il printbot su vasta scala. Sta attualmente preparando un ordine di 500 printbot, tutto grazie ai fondi ricevuti tramite Kickstarter. I kit per i principianti devono essere assemblati che misurano approssimativamente 12,7 cm, con aggiornamenti disponibili in versioni da 20,32 e 30,5 cm. Il sistema è alimentato da corrente a 19 volt e lavora con una varietà di sistemi operativi e software. Per i principianti è suggerito il Replicator G. Drum ha anche deciso di evitare la ricerca di parti dalla Cina. Il printbot sarà prodotto negli Stati Uniti, quindi. Per ora, con un impegno di almeno $500, vi potrete riservare un kit completo, mentre con una spesa superiore, ovvero di $750, è quella richiesta per una stampante completamente assemblata. È stata tratta da Zeit News questa notizia. Passiamo alla prossima. Posso aggiungere qualcosa? Sì, vai. No, dicevo, è molto più piccola della RepRap, anche se utilizza lo stesso software, Replicator, più o meno di meccanismi è la stessa, anche l'Hatted Bed per il letto di stampa è uguale. Costa di più. Quanto hai detto che era il prezzo? Quella di base era $500, invece quella completamente assemblata $750. Ah, solo i pezzi $500? Sì. Ah, quindi ci costa di più. Ok. Vi pubblico l'altro articolo. No, vabbè, fregatura no, magari. Cioè, è bella anche questa, è un po' più piccola. Il piatto è 12 cm per 12, lo spazio di stampa. Ok, ragazzi, andiamo avanti. Creato un materiale simile alle ossa umane con una stampante 3D. Vi stavo appunto dicendo prima che con la stampante 3D non si possono stampare solo oggetti in plastica, ma addirittura, come un famosissimo TED Talk di Anthony Atala, si possono stampare perfino degli organi umani, e ci sono riusciti, impiantando una vescica stampata, e ora si sta pensando di stampare organi più complessi come ad esempio reni, cuore, polmoni, eccetera. Adesso vi leggo l'articolo nello specifico. I ricercatori usano una stampante 3D per creare un materiale simile alle ossa umane. Questo è sempre tratto dallo spirito del tempo.wordpress.com, traduzione a cura di Daniel Iversen. Scusate. Dall'aspetto sembra un osso, lo si sente come un osso, ma per la maggior parte si comporta da osso, ed è riuscito da una stampante a getto. I ricercatori della Washington State University hanno usato una stampante 3D per creare un materiale simile all'osso, con una struttura tale da poter essere utilizzato in procedure ortopediche, lavori dentali e per portare aiuto nel trattamento dell'osteoporosi. Messo in coppia con l'osso reale, funge da impalcatura per la crescita di quest'ultimo e alla fine si dissolve, senza nessun apparente effetto dannoso. Gli autori riportano che il successo del test in vitro sulla rivista Dental Materials, e dicono di stare già osservando i risultati promessi sui test tratti da roditori, ovvero topi e conigli. È probabile che i medici saranno in grado di sostituire gli ordini di tessuto osseo in pochi anni, dice Susmita Bose, coautrice e professoressa della Washington State University School of Mechanics and Materials Engineering. Afferma, se il medico ha fatto l'attack e si è riscontrato un difetto, possiamo convertirlo in un file CAD e costruire il punteggio in accordo con il difetto, dice Bose. Il materiale nasce da uno sforzo interdisciplinare durato 4 anni che ha coinvolto la chimica, la scienza dei materiali e la biologia e la produzione. Una delle principali conclusioni del documento è che l'aggiunta di silicone e zinco ha raddoppiato il livello di resistenza del materiale di base, il calcio fosfato. I ricercatori hanno anche trascorso un anno per ottimizzare a questo scopo una stampante 3D già in commercio, chiamata ProMetal, progettata per creare oggetti metallici. La stampante funziona con uno spray a getto di plastica che spalma strati dello spessore di 20 micron, circa la metà dello spessore di un capello umano. Seguendo le istruzioni del computer, crea un cilindro incanalato delle dimensioni di una gomma da cancellare e di una matita. Dopo appena una settimana, a contatto con le cellule delle ossa umane immature, l'impalcatura era sostenuta da una rete di nuove cellule ossee. La fonte è Medical Express. Potete consultarlo. Benissimo, scusate per gli errori di lettura, perché è la seconda volta che leggo, comunque ci sono anche degli errori di traduzione. Quindi è finito l'angolo della scienza, e Daniel, sei un grande comunque. Finito l'angolo. Esatto, bravo. E niente, volevo chiudere le notizie e chiudere la registrazione del podcast e passare alla discussione libera, visto che ci sono due o tre argomenti da trattare. Vi saluterei e vi ricordo che ogni due domeniche alle 21.30 c'è un incontro via chat Zeitgeist Italia per tutti gli attivisti che vogliono darsi da fare. Le istruzioni le trovate all'indirizzo zeitgeistitalia.org/podcast. Vi ringrazio a tutti, io sono Vincenzo Barbato e ci vediamo al prossimo podcast. Grazie a tutti e buona serata.